Thank you.

rise and fly and feel and live. Now look around. People dance, people sing. Your skin and hands and minds on earth, what's the love? This one's ill. Thank you. vela la tua voce mentre suoni il liuto che tesse canti ed armonie col mare lì con te. Muschi e spiagge senza fuochi, manca il tempo per capire l'ermetismo delle grida, bianco alone per sperare ancora. Lungo e giallo il letto che si stende accanto a te, furti intanto l'occhio abitudine di cuor, bagna dolce la tua pelle, urla lunghe insieme pelle, son soltanto dei clamori, quei richiami che udirai ancora. Thank you. resta qui, no, non posso, devo ormai andare. Tornerai, non lo so, tu prova ad aspettare. Seguo il sole per vedere, resta qui, no, non posso, devo ormai andare. Tornerai, non lo so, tu prova ad aspettare.